Benvenuti! Benvenuti al nuovo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E in questa 12esima puntata del podcast, intitolata The Boss, parleremo appunto dei boss. Che altro dico, eh? Che introduzione precisa, okay. E concisa. Quindi saranno solo videogiochi sulla mafia italo-americana? No. I boss. Che cosa possiamo dire dei boss? Che cos'è un boss? Mi ricordo che ne avevamo parlato, avevamo trovato un accordo, ma mi sono scordato. Quindi vai pure. Leggendo i nostri bellissimi appunti, io ero partito subito facendo il, come dire, sempre il filosofico, a indicare il boss come un picco di difficoltà. No, avevi detto subito la metafora, avevi detto un muro. Il boss è un muro. È un muro da scavalcare se si vuole procedere, no? È il classico ostacolo sul percorso di un eroe, qualcosa per così dire. Sì, un momento di confronto. Esatto. Con un boss, noi almeno io personalmente, e Jacopo, se ho capito bene, concorda più o meno con me, definiamo il boss come quel momento in un videogioco in cui la difficoltà ha un picco improvviso e per continuare nel gioco il giocatore deve, come dire, fare uno sforzo più grande del solito. Però di solito questo picco di difficoltà, che può essere anche un blip, cioè non è che per forza deve essere, capito, oddio, cioè di solito è concentrato in un'entità, in una figura che lo incarna, che lo rappresenta, che lo rappresenta. Beh, questa idea del boss prende appunto questo nome perché nasce con i giochi in cui c'è una meccanica di combattimento, cioè il giocatore che deve sconfiggere un nemico particolarmente potente, il boss di quel livello o, come dire, parte di quell'organizzazione, della storia, esatto. Sì. E quindi, cioè, è stata, come la meccanica del combattimento, del conflitto, esiste fin dall'alba dei tempi nei videogiochi, conseguentemente anche la meccanica del boss la accompagna tenendole la mano, praticamente. Cioè, possiamo immaginare già agli inizi che ogni volta che si giocava a Dungeons and Dragons negli anni 80 con Gary Gygax e tutti quanti, che a un certo punto ci buttava nel dungeon che stavano esplorando il drago di qualche livello particolarmente difficile da affrontare, quello era considerato così per dire il boss di quel dungeon, ovvero il nemico finale, quello da sconfiggere per poter dichiararsi vittoriosi. E questa idea del nemico più potente, che oltre si può trovare anche in vari film e altre forme di intrattenimento, direi che si è trasmessa anche a quella dei videogiochi. E quindi... Però aspetta, allora, prima di continuare, dica. Sembra una definizione un po' nebulosa. Dicevo, un picco di difficoltà, un muro da scavalcare, una creatura così. In realtà è perché esistono tanti modi diversi di farlo, di creare un boss, non necessariamente in un gioco di combattimento, che però è quello più diffuso, però esistono anche degli esempi che possono aiutarci, che non sono boss, anche se lo sembrano. Quindi magari conviene farli ora, per paragone, forse. Esatto, perché noi abbiamo inteso come picco di difficoltà, però appunto deve essere quella salita improvvisa che però può essere superata per poi tornare a un livello più stabile, magari più alto del precedente, ma comunque stabile, non oscillante, per così dire. Ci sono molti che confondono quest'idea con qualcosa che può assomigliare a un boss e che magari a un certo punto del gioco lo è veramente, mentre in altri momenti è solo, come dire, qualcos'altro. Ci è venuto, mentre stavamo prendendo appunti per questa puntata, c'era venuto appunto in mente l'esempio del Nemesis di Resident Evil 3, oppure di Mr. X, giusto, quello di Resident Evil 2, che appaiono sulla mappa a inseguire il giocatore, questi due grossi energumeni, e la gente ogni tanto tipo li può definire boss solo perché vede questa creatura di grandi dimensioni che a un certo punto effettivamente sconfiggerà durante il gioco, se non ricordo male. Spoiler. Capito? No, però cioè, 1990 qualcosa gioco. È perché fanno a volte sono dei momenti fighi, capito, dove questi qui tipo sfondano una porta. Dici, oh cazzo, e ti spaventi perché non puoi ucciderli all'inizio, cioè durante il gioco. Magari in altri giochi tipo Half-Life Alyx ci sta Jeff, bellissimo nome tra l'altro, Jeff, per una cosa del genere, che è un altro nemico simile, però lì è proprio evidente quanto sia un puzzle, in realtà, più che un più che un boss. È più un fastidio, come dicevi tu l'altra volta, no? È una cosa... E qua leggono gli appunti, aggiungere una regina in una partita a scacchi, cioè semplicemente è una difficoltà aggiuntiva, però diluita nel tempo, cioè più... Esatto, cioè costante. Lì non stai creando un picco di difficoltà, lì stai semplicemente alzando la difficoltà di base a una maggiore. O se prima dovevi pensare solo agli zombie in Resident Evil che ti potevano bloccare la strada, adesso devi anche considerare la minaccia del Nemesis che può apparire in certi punti della mappa e... mazzarti le chiappe, per così dire, perché... quindi appunto non è una cosa che devi superare, è un problema in più che il gioco ti mette e lo devi continuare a considerare per il resto della, per la maggior parte della partita, almeno più o meno verso fino alla fine. E perché fare una cosa del genere? Cosa può servire? Come dire, questo è un metodo di aumentare la difficoltà con questo aumento statico prolungato del tempo, come appunto il Nemesis di Resident Evil 3. Mentre, cosa serve il boss? Il boss inteso come l'abbiamo inteso noi. Ah, direi era una domanda anche... per no, me. No, non era una domanda, stavo cercando le parole da dire dopo. Che era una domanda retorica, perché questo è importante. Cosa dovreste già sapere, cosa venite a chiedere? Perché a chiedere noi? No, facciamo gli ignorri un attimo, dai. Allora, abbiamo scritto qui, negli appunti, quando ne abbiamo parlato prima dell'episodio, che un boss, come abbiamo detto, è un picco di attenzione, no, scusa, un picco di difficoltà che richiede la tua attenzione, quindi esatto. è come se nel tuo normale loop di gameplay, cioè in quello che tu pensi che abbiamo già introdotto 50 volte, quindi basta, avete rotto il cazzo, cioè non devi portare l'episodio prima. Non iniziare esatto. Dal 12, porca miseria. Esatto, in questi... diciamo cicli, no? Continui, che magari non sono ripetiti perché magari è un gioco fatto bene, interessante, però in questo loop normale di combattimento o quello che è il gioco, insomma, all'improvviso c'è un incontro, c'è una soglia di difficoltà più alta che è una specie di come dire, una specie di test, no? Cioè tu hai fatto un corso alla scuola, all'università, alla fine hai un esame per vedere se stavi attento. E una volta superato quell'esame puoi andare avanti e, diciamo, altri corsi magari presuppongono che un po' ti ricordi quello che quell'esame cercava di, insomma, di verificare. Però non è solo questo, cioè non è solamente... una specie di momento di verifica anche per l'autore del videogioco, no? Una specie di, ah, ok, se il giocatore è qui, ha passato questo boss e quindi sa usare questa tecnica. Perché magari, se è un giocatore stronzo, quel boss l'ha battuto in una maniera completamente, cioè, diversa. O magari se il gioco è fatto bene, che ne so. Ne parleremo meglio dopo con altri esempi. Però è anche, secondo me, importante un boss in molti giochi per avere un momento di risveglio proprio a livello di trama, cioè di risvegliarti l'attenzione. È un punto e virgola nella trama, qua ce lo siamo appuntato come metafora perché te l'ha piaciuta. Bellissimo. E avevamo detto anche, non è solamente un punto e virgola, è anche, diciamo, se normalmente nel gioco le tue energie, la tua attenzione è quella che magari puoi avere durante una maratona, il boss è più uno sprint, un assolo. Se è fatto bene non dura un'ora, dura 10 minuti massimo. Esatto, come dire, il gioco, i giochi hanno questa tendenza, soprattutto ultimamente, in cui le case di sviluppo tendono sempre a voler fare giochi sempre più lunghi, vogliono puntare sulla durata del gioco come una dote, una qualità del gioco stesso. E ovviamente in giochi che durano quanti? 20, 30 ore, anche di più, la tendenza a diventare ripetitivi, quella è un po' in, come dire, impossibile da eliminare del tutto. I boss aiutano con questa cadenza, no? Danno un po' il ritmo a questo videogioco. Tu sai che incontrerai un certo livello di difficoltà e il boss, pam, a un certo punto apparirà e indicherà che in quel momento il gioco diventa più difficile, è una prova appunto da superare, e tu sai che da quel punto in poi il gioco si fa più duro, per così dire. E appunto ci sono anche giochi che si strutturano principalmente con quest'idea del boss, cioè il boss dà una cadenza misurata a tutta la storia, a tutta l'avventura e l'esperienza di gioco. I più famosi, che citeremo anche un po' più avanti, più nel dettaglio, ma come Dark Souls, Bloodborne, tutti quelli della From Software, e ultimamente anche, oddio, qualche altro titolo. Abbiamo detto Cuphead, Monster Hunter. Ma in questo caso avrei pensato più forse a Hollow Knight, per esempio, per fare un esempio. Ah, tu dici non quelli boss rush, dici? No, no, non esattamente. Ah, okay. Quelli di questi, tipo Hollow Knight e quelli della From Software, utilizzano appunto i boss come quasi come i checkpoint, se possiamo definirli, come quando abbiamo parlato dei checkpoint qualche puntata fa, ovvero appunto dei punti nella storia, nell'avventura dell'eroe, che uno sa che a quel punto, che da quel punto in poi non si può più tornare indietro, qualcosa è stato fatto, il mondo è stato modificato e tu protagonista non sei più lo stesso dopo aver ottenuto la vittoria contro questo boss. E niente, questo è solo un altro, ci sono appunto giochi che hanno basato tutto il loro fascino più grande sulla capacità di fare dei buoni design per dei boss. E poi sono giochi che invece... esatto. Perché effettivamente possiamo anche pensare che un boss può finire a non servire letteralmente niente, perché se è solo... A volte vengono usati invece come perdita di tempo per dire, ah, qua ci metto un nemico che ha tipo 10 volte tanti punti vita di un nemico comune e bah, abbiamo fatto un boss. E insomma, non sempre tutto è sempre così facile. Ci sono giochi che questa meccanica del boss non la colgono alla perfezione. Ma questo si può dire di qualsiasi meccanico, come avrete notato dalle nostre precedenti puntate. Nostre lamentele. Sì, ovviamente, come qualsiasi cosa al mondo può essere fatta bene, può essere fatta una merda. E in questo caso, se è fatta una merda, i boss sono da considerarsi effettivamente solo delle perdite di tempo, cioè possono essere, diventano frustranti, è un picco di difficoltà troppo grande, oppure non grande abbastanza da quasi non accorgersi di stare affrontando un boss in quel momento, da rendere un boss talmente frustrante e difficile da superare che l'esperienza non è più piacevole, è come andare lì e dire, ah, no, mi ha ammazzato di nuovo, devo rifare tutto da capo, oh, che palle, abbandono il gioco dopo 5 ore di gioco e non lo riprendo più in mano. Quindi lì bisogna fare attenzione. E come dicevamo, per chiudere questo capitoletto su a che cosa serve un boss, ci sono giochi, e questo devo ammettere che sono anche ci sono un po' debole verso questi tipi di giochi, a me piacciono, i giochi in cui tutto il gioco è un susseguirsi di boss, qui non ci sono come dire, curve che crescono dolcemente per poi impennarsi bruscamente e ritornare poi a un livello più stabile, diciamo. È tutto picchi, è tutto su e giù. È un su cuore giù. In defibrillazione. Esatto. Su e giù di, di questi enormi nemici difficili. Uno che ha avuto molto successo ultimamente era Cuphead, come diceva Jacopo prima, oppure Monster Hunter ha dovuto il suo grande successo in Giappone e ultimamente anche in Occidente, grazie appunto a questa idea di affrontare questi mostri giganteschi che erano da intendere effettivamente come un susseguirsi infinito di boss. con combattimenti che duravano anche 30-40 minuti all'inizio del gioco contro un singolo avversario. Sì, perché lì, vabbè, quella è un po' la meccanica centrale, effettivamente. E quindi un altro gioco che mi è piaciuto, che però non ho avuto abbastanza pazienza di completare del tutto, è stato Titan Soul, che ispirandosi sempre un po' ai Souls, guarda un po', tu protagonista eri un protagonista in cui aveva un personaggio che aveva una singola freccia che doveva lanciare e poi andare a riprendere per affrontare dei boss che erano da considerarsi quasi come dei mini puzzle, ovvero questi enormi nemici che dovevano essere affrontati in una certa maniera, trovarne i punti deboli e capire come interagivano con le loro arene per poterli sconfiggere. Cavolo, mi sembra figo. Poi vabbè, la cosa di una freccia sola immagino non sia tipo tieni questo cucchiaio, vai a uccidere Zeus. Cioè un po' penso sia un pochino più... In realtà quasi, guarda, forse è l'inizio. Ok. Quasi. Dai, al massimo dai un coltello da cucina più che un cucchiaio, cioè un po' te la danno da... però okay. Comunque da ammazzare che zero con il coltello da cucina. Ho capito. E quindi dicevamo prima, cos'è che rende, abbiamo detto, quando i boss sono fatti di merda non sono buoni boss, ok, grazie. Perfetto, per tautologia in questo momento. Perfetto, quando sono fatti male sono fatti in merda. Sono giusto, ma dobbiamo anche forse motivare, cioè di dire che cos'è che rende un boss buono e che cos'è che rende un boss cattivo. Effettivamente è difficile. È una di quelle questioni che uno non ci fa caso. E con i giochi è sempre così, no? Uno quando si trova nel flow, no? Anche questo, il flow, parleremo in un'altra puntata. Ma quando uno si trova lì sul momento ad affrontare il gioco, non si sta tanto a chiedere questo boss figo, questo perché c'è questo design. No, c'hai altri problemi in quel momento. E specialmente per i boss, cazzo, hai molti problemi. È un po' ultimamente con tutti con questa, come dire, corrente di fanatismo verso certi tipi di giochi in cui i boss erano molto centrali come argomento, tra cui appunto, ripetiamo di nuovo, vogliamo dirli tutti insieme in coro, Dark Souls, Bloodborne, quei giochi della From, eccetera, eccetera. Possiamo fare tipo registrare una volta sola, Dark Souls, esatto. Bloodborne... Ma ci serve una parola in codice, tipo come si dice, un anagramma, no, non un anagramma, che cazzo si facciamo... dice? Un acronimo. Isabaku, chiamiamolo. Altra cheat che esatto. Andate a vedere i suoi canali su YouTube. Sì, perché lui davvero sa di cosa parla, noi andiamo a casaccio. Assolutamente, copiamo da lui brutalmente anche a volte. Quindi ok, con questa corrente, fammi finire che la frase che forse ce l'ho, con questa corrente di fanatici verso questi giochi, un po' si è iniziato ad analizzare i pro e i contro di questi boss, di queste esperienze di gioco e che cosa li rendono interessanti. Dicevi, Jacopo, a questo punto? No, questo era, detto questo, e mettendo avanti le mani e dicendo che questa è la nostra opinione soggettiva, che ci abbiamo provato a capire cosa abbiamo... Andiamo, allora. Okay. Come dicevo prima, quando stavo facendo l'esempio dei brutti boss, a volte può capitare che se il boss deve essere un picco di difficoltà, non sia il picco giusto, ovvero a volte troppo alto, a volte troppo poco. Quelli troppo alti finiscono per essere quei boss ingiusti, ingiustamente difficili o in cui, non so, a un certo punto il gioco ti butta in una situazione che non avevi mai affrontato prima e tu o magari una meccanica, tipo, ti usa quel boss per mostrarti una meccanica che non ti aveva mai cercato di insegnare prima e tu cerchi di capire come cacchio lo batto sto qua, perché quando lo colpisco qui non funziona, perché devo per forza... non so, andargli usare questo oggetto per danneggiarlo. E a quel punto, se uno non, come dire, se la boss fight non è almeno chiara, soprattutto per quelle più simili a puzzle, che a meccaniche puzzle, che come dire, di combattimento, di statistiche pure, come sono quelle più forse dei giochi di Zelda, a quel punto l'idea del boss diventa frustrante, perché tu ti ritrovi ad affrontare di nuovo questa creatura che continua a massacrarti senza mai capire bene perché ti sta massacrando, o comunque sentendoti appunto, come dire, ingiustamente punito di un boss che è stato così potente a questo punto del gioco. E... sì, cioè tipo in Link's Awakening uno dei boss dei vari dungeon usa una meccanica che tu fino a quel momento non hai mai visto, quindi cioè, quando l'ho scoperto come batterlo ho detto, ah cavolo, però potevano magari presentarla, cioè introdurla un pochino prima e qui farne una versione un po' più difficile. Quindi diciamo, il boss di solito non è il momento adatto per introdurre una meccanica. Questa secondo me è la prima, come posso dire, è il primo criterio da seguire con un boss. Cioè con un boss è meglio non introdurre una meccanica, o comunque se va introdotta in maniera abbastanza chiara. E qui volevo fare una specie di dietro le quinte, perché... okay. Qui ho parlato con un designer, perché ci lavoro, cioè ha lavorato con me pure per alcune cose. Mm-hmm. Questo designer era a capo del design dell'ultima boss fight di A Plague Tale. Se non ci avete giocato, recuperato, comunque è figo come gioco. Cazzo, ora... questo dietro le quinte è fighissimo. Continua, assolutamente. Continua? Ok. Adesso non ho avuto in mente, non so perché, stavo parlando una sera sul tram e mi è venuta in mente la discussione, perché lui mi diceva che non aveva molte risorse, non aveva molto tempo di fare questa boss fight, e diciamo il problema che molti giocatori sono lamentati è che introduceva appunto una meccanica mai vista prima nel resto del gioco. E io gli ho risposto che in realtà è il mio boss preferito, quello in tutto il gioco, perché adesso non voglio spoilerarvi l'ultimo boss, non voglio dirvi bene come si combatte, però diciamo gli altri boss di Plague Tale sono un po' più standard, sono un po' più già visti, non è, i combattimenti non sono molto interessanti o molto difficili, tra l'altro. L'ultimo boss è forse l'unico in tutto il gioco che mi ha fatto davvero sudare per sconfiggerlo, e la meccanica che introducono è comunque è intuitiva, mettiamola così, cioè è una specie di evoluzione di una meccanica che viene introdotta un po' prima, un paio di ore prima, ed è una specie di evoluzione, una specie di... è un po' come... su Star Wars vedere un nemico che lancia la spada laser e poi lo puoi fare anche tu, quindi non è una cosa che non hai mai visto, è una cosa che magari vedi fare al tuo boss e poi scopri che puoi farla anche tu. Quindi io gli ho detto, guarda, non sono d'accordo, secondo me è una bella boss fight, tipo è un complimento insulto, cioè ho detto non capisci un cazzo, sei stato bravo. Stronzo, se dico che sei bravo di ascoltarmi. Esatto. Però capisco anche che dici, mi ho detto, cioè capisco che comunque per fare una buona boss fight serva non nascondere troppo al giocatore cosa deve fare, renderlo comunque abbastanza chiaro. Mm-hmm. Volevo fare un altro commento, ma mi sono scordato, quindi scusami. comunque sì, cioè, questi criteri che noi, diciamo, abbiamo detto, ok, quindi nuova meccanica, ok. Ce ne sono tantissimi altri, in realtà. C'è tipo un paper... Prima di cambiare subito discorso, invece volevo aggiungere un'altra cosa io. Dicevo, il picco di difficoltà troppo alto. Nell'altro esempio, invece, in questo caso, era quando... quando per esempio c'era un boss in cui semplicemente nei giochi che si basavano più sulle statistiche l'impennata di statistiche di questo nemico era effettivamente colossale rispetto a quello del rispetto al punto in cui si trovava il giocatore. Oddio, che mai ricordato! Oddio! Mi è venuto un cancro, ho avuto un trauma con Final Fantasy X con, come cazzo si chiamava, Gigaton Sin, a un certo punto... C'era questo boss, beh, velocemente, c'era questo boss a un certo punto della storia che avevi un timer. Era la prima volta in tutto il gioco che il gioco ti diceva hai solamente tot turni per uccidere questo boss. E quindi, cioè, io matematicamente non potevo vincerla, proprio non ero abbastanza livellato, e io semplicemente fino a quel momento avevo fatto tutte le battaglie del gioco sulla storia, cioè avevo sconfitto tutti i boss, avevo battuto tutti i nemici che mi comparivano casualmente per strada, tutto. Comunque non potevo batterlo, cioè dovevo andare da un'altra parte a livellare, a fare grinding, e per me quella cosa non va bene. Cioè non mi è piaciuto quel momento, quel boss, perché mi ha costretto a fare una cosa, tra virgolette, noiosa come il grinding, per un motivo matematico, che è quello che dicevi tu. Cioè è un'impennata troppo alta per il flow naturale del gioco, per il percorso del giocatore. Ci sono anche... A volte, come dire, questi boss vengono anche usati un po' come scusante. Per esempio, in Dark Souls può sembrare, qua è dove sta la sottigliezza, può sembrare che ti mettano un nemico troppo difficile da sconfiggere davanti a certe aree per farti intuire che magari quell'area è veramente troppo difficile da affrontare per il tuo livello. E lì ci va bene come cosa. Poi il fatto che ti lascino affrontare il boss in quel momento... anche se è un livello di difficoltà estremamente più alto del punto in cui ti trovi, ti fa intuire che, essendo appunto Dark Souls una mappa più aperta, quella non è la direzione giusta da seguire. E quello è un modo interessante di usarli, questi boss, ma c'è anche il risvolto che, se uno sa veramente quello che sta facendo, Dark Souls, alla fin fine, dandogli questa possibilità di affrontare questi nemici particolarmente difficili anche a inizio gioco, ti dà come dire, se sei abbastanza bravo, tu li puoi sconfiggere, è solo una tua illusione iniziale che tu non possa sconfiggere questi nemici. E quindi qua, quando uno se ne accorge, c'è un po' il mindfuck di quel momento, che dici, oh, allora sono veramente io l'eletto. Il prescelto. Però sì, nel senso, sono boss particolarmente ingiusti, smisurati, ma che comunque possono prevedere di essere sconfitti. E questa, secondo me, è anche lì che è stata un po' l'innovazione, che non c'era veramente il boss che, come dire, te lo mettevano lì, te lo facevano affrontare, era troppo difficile perché non volevano che lo sconfiggessi. No, loro volevano che lo sconfiggessi, ma che ti impegnassi al massimo per farlo, praticamente. Uno di questi esempi potrebbe essere Havel, anche qua spoiler, ma che cazzo voglio dire, quanti anni sono passati da... Vabbè, Havel, con quel suo enorme corno di drago, dente di drago. È una scelta stilistica, è una scelta di moda. Oppure, oddio, adesso ovviamente non mi viene in mente. E qualcun altro. Descrivilo. Non mi viene in mente. No, non mi vengono in mente ovviamente in questo momento, perché comunque il primo che mi viene in mente è Havel, perché okay, che è più o meno un boss, è quel nemico particolarmente difficile da affrontare, a meno che tu non sappia tutte le meccaniche del gioco, che abbia un po' imparato ad affrontare i tuoi nemici. Perché essenzialmente Havel, per chi non lo conoscesse, è praticamente un giocatore umano, cioè nel senso è un NPC, ma... si muove allo stesso, diciamo, alle stesse possibilità di un giocatore vero, e se conosci i problemi che ha la sua build, diciamo, gli oggetti che ha addosso, e quello che, e come si muove, quello che può fare, e quello che puoi fare tu, esatto, è abbastanza, sì, è abbastanza fattibile. Non è che dobbiamo insegnargli a battere Havel, se lo devono guadagnare questi. Esatto. Quello volevo dire. No, di pure, scusa. Prima di andare avanti velocemente, esiste un paper da qualche parte, adesso non mi ricordo, forse mi ricordo ve lo linko nelle descrizioni, ma non riuscirò a trovarlo probabilmente. Questo paper che parla di, appunto, analizzare i boss e analizzarli in base a quante mosse hanno nel loro moveset. Moveset sarebbe, appunto, l'insieme di mosse possibili di un personaggio, come si muovono, ogni moveset, che tipo di attacco è, tipo se è un attacco di tanti proiettili veloci, se si può evitare, come si può evitare, cioè tutti questi vari parametri, no? per ogni attacco, e analizzare in base a tutti questi dati che si possono raccogliere, quindi dati abbastanza oggettivi, no? Perché alla fine sono numeri, sono certo. proiettili che puoi misurare. Misurare e confrontarli con i giudizi soggettivi del giocatore. Quindi questo boss è bello, è brutto, è facile, è troppo facile, è bilanciato, è difficile, è giusto. Che è la cosa più importante in realtà, cioè questa idea che il boss sia giusto in senso di fair, cioè in senso di essere bilanciato, di essere corretto, mettiamola così. È un po' come, guarda, se mi verrebbe da fare un esempio, quando stai giocando con qualcuno e vuoi che il tuo avversario non bari mentre giochi, mentre giocate insieme. L'idea del fair appunto è che questo nemico, questo grosso nemico, anche se un giocatore fittizio, per così dire, un avversario creato e controllato dal computer, esatto, non bari nel gioco. Che è una cosa che fanno spesso, per esempio, i giochi di strategia. Cioè, per rendere il gioco più difficile, invece di fare un IA, un'intelligenza artificiale con i controcazzi, semplicemente danno più soldi all'intelligenza artificiale, danno più risorse. Tranne alcuni giochi tipo, mi pare, StarCraft 2 e Halo Wars 2, che invece hanno un'intelligenza artificiale veramente tosta. Della Madonna. Cioè, esatto, veramente della Madonna. Oppure magari, che ne so, alcuni giochi dove l'intelligenza artificiale è un progetto della Tesla o della Samsung o della Google, tipo appunto StarCraft 2. Mi sa che la Blizzard con l'intelligenza artificiale, si può dire quello che vuoi della Blizzard, ma con l'intelligenza artificiale ce la sa fare. Sì. Mi sa anche Dota hanno fatto delle intelligenze artificiali fighe. Comunque, beh, potremmo usare questi parametri per giudicare una boss fight, quindi farlo in maniera molto oggettiva, non lo faremo. Diciamo che esistono. Vi metto il link a questa paper. Ma fatelo da soli. Perché il tizio che l'ha fatto, questo paper, l'ha fatto solo su Cuphead e l'ha fatto tipo su due o tre boss di Cuphead, perché è veramente un lavoro, no, è un lavorone farlo. Parleremo un po' in maniera più olistica, cioè in maniera un po' più a casaccio di sti boss, sì, che ci piacciono o che ci fanno schifo. Ancora prima di parlare dei boss, non so se avevamo detto l'altro punto, cioè ovvero abbiamo detto quando il boss è troppo alto come picco di difficoltà, ci abbiamo in mente qualcosa quando è troppo basso? Di esempi o dici del perché è troppo basso? Come... anche un po' del perché, perché io, cioè, l'unica cosa che mi veniva in mente quando il picco di difficoltà era troppo basso era che magari il designer l'aveva inteso come un boss e il giocatore non l'ha inteso di conseguenza, cioè non si è neanche accorto di stare a affrontare un boss. Nel senso, se è un boss vero e proprio, tu dici, ed è troppo facile? Secondo me lì l'unica cosa che può andare male è che magari se volevi usare anche il boss un po' più come un mezzo per raccontare la storia, un momento interessante, quello lì, il fatto che sia troppo facile da battere fa perdere un po' questo significato. Ah, sì, certo. Se tu volevi dare questo momento, questa esperienza folgorante al giocatore, in questo modo hai un po' perso la sua attenzione, perché non ti è venuto troppo, troppo giusto. Però non è troppo grave, secondo me. Cioè, boss... Cioè, l'importante è che non sia un boss noioso. Se è facile, è un inciampo, è una cosa fastidiosa più che un problema grosso, non so come dirlo. Cioè... Sì, dei due di sicuro più difficile, più è peggiore il muro troppo alto che quello troppo basso. Alla fine il muro troppo basso, cioè, a scavalcarlo ti ci vuole niente, ma non ti dà troppo fastidio, quindi non ti fa venire voglia di smettere di camminare, per continuare questa metafora tra i muri e forse. Il muro troppo alto, a un certo punto uno può dire no, mi ha rotto troppo le palle, io faccio dietro fronte e non continuo più. Per cui. A meno che non sono tutti muretti bassi, in quel caso dici che cazzo, cioè che stiamo a fare? Appunto diventa una corsa ad ostacoli. Okay. E niente. Detto questo, io direi che di far partire il concorso, abbiamo una musica introduttiva. No, non abbiamo una musica introduttiva, questa è una cazzo che da fare. Volevo fare il simpatico, ma no. Abbiamo parlato di boss, cosa sono, a cosa servono, perché sono buoni e cattivi, e arriviamo a questo punto della rubrica in cui iniziamo a dare qualche esempio. E, come dire, di boss ne abbiamo di esempi da dare, eh? Come dire. Anche troppi. Quindi vediamo, sono le 4:20 al momento che stiamo registrando, vediamo quanto tempo riusciamo. Vabbè, non daremo 20 minuti a ogni boss, alcuni boss ripetizioni di cose giuste di quelli prima. Però come vogliamo anche fare, vogliamo partire da quelli ok e poi arrivare quelli al culmine, secondo noi, proprio l'apice dell'apice, o andiamo... Io andrò a casaccio, tu fai perfetto, come vuoi. Ok, allora io il primo lo do a Jacopo, questo punto. Oddio. Prego. Allora... Il primo in alto che abbiamo scritto, cioè, abbiamo scritto entrambi allo stesso momento, cioè ce lo siamo arrivati entrambi, quindi direi che possiamo anche parlarne entrambi, è Padre Gascoigne o Father Gascoigne, non so come pronunciarlo. Father Gascoigne, che è inglese. Esatto, è uno dei primi boss di Bloodborne, quindi un altro Souls-like Sabaku. Gioco game. Della From Software. Esatto. From Games. Come dobbiamo trovare un modo per definire? Gioco della From Software. Gioco della From Software. In stile delle Dark Souls, che è un boss... Ha tante cose questo boss insieme, non so come dirlo. Allora, perché allora, prima di tutto è un boss che ha due fasi, quindi molti boss... Dopo che hanno perso un tot di salute, dopo che il giocatore ha fatto una particolare azione, cambiano moveset, cambiano comportamento, cambiano velocità, sono magari più aggressivi o meno aggressivi. Questo boss, durante la prima fase, è un po' un giocatore nemico, cioè un po' una specie di NPC barra giocatore PvP che si comporta abbastanza in maniera leggibile, cioè è facile... No, non è facile, però le azioni che fa, gli attacchi che fa sono comprensibili, sono più o meno gli stessi quasi che hai tu. Lui tecnicamente, appunto, inquadriamolo un po' forse anche nel mondo di gioco, perché come volevo accennare prima, mi sono un po' scordato, i Souls erano quei giochi un po' che raccontano i boss, giusto? L'avevamo scritto in altri. Sì, è vero. Ovvero che appunto... fanno dei boss inteso proprio come entità, come loro storia, come loro sfida, come loro, come dire, leggenda quasi, il centro dei loro giochi. Questo Padre Gascoigne vive in questo mondo in cui c'è una grande guerra, appunto, la guerra tra le bestie e tra i cacciatori. E Padre Gascoigne è un cacciatore, anzi, tecnicamente... All'inizio, quando lo affronti nella prima fase, come diceva Jacopo, è un cacciatore armato con una delle armi che sono disponibili anche al tuo personaggio all'inizio del gioco. Quindi se tu ti è capitato di prendere quell'arma, non solo, come dire, non solo vedi che è un cacciatore, ma vedi che si muove esattamente come te, come ha i tuoi stessi tipi di attacchi, ha il tuo modo di combattere durante la prima fase, perché lui è un cacciatore, proprio come te. E questa è la prima parte, diciamo. E volevi aggiungere altro? O... No, sì, cioè, altre cose a livello di meccaniche nella prima fight è che la sua umanità, appunto, ti aiuta anche un po' a immedesimarti e c'è sempre quel, capito, quell'odorino di senso di colpa, no? Che c'è in ogni Dark Souls. Assolutamente. Capito, quella sensazione un po', ma sto veramente a fare la cosa giusta? E soprattutto ce l'ha se come me sei un codardo figlio di puttana che è andato su Wikipedia, sulla wiki a leggere come ammazzarlo perché era troppo difficile e hai scoperto che esiste un oggetto che lo fa impazzire, che praticamente lo stunna, cioè lo blocca dove si trova ed è facile fargli un sacco di danno. E quell'oggetto è una specie di carry-on. Oh, qua se parliamo anche di carry-on... Di quella che immagino... Come, scusa? No, se parliamo anche del carry-on, altro che 20 minuti, qua se ne va. Lo ignoriamo, però è un carry-on che forse è della figlia, non si sa bene, però lo fa un po' quasi impazzire, non si sa bene per quello, non lo diciamo. Però poi arriviamo alla seconda fase, in cui tutto ti si ribalta. Esatto. E diventa... Perché... No, vai. Ok. Che appunto volevo aggiungere che... Essendo lui un cacciatore abituato a cacciare bestie, si muove come noi, in pratica è come quasi affrontare una copia di noi stessi. E in questa prima fase, appunto, impariamo una di quelle che dovrebbe essere la meccanica principale del gioco. Sbagliato. È per quello che l'ho detto, è qui che ti volevo, scusa, vai. No, in che senso? Perdonami. Ah, in quel senso, per quello hai tutto il carrion che... No, esatto, perché io non sapevo quella meccanica e non l'ho mai usata in tutto il gioco. Diciamo, per come Dark Souls, come Bloodborne vuole insegnarti il combattimento, esiste questa meccanica che si chiama del parry, ovvero della... Come che in italiano, tipo del... Parata, sì, la divenzione. Non proprio parata, è più risposta, quasi un... Tipo repost, come si dice? Esatto, tipo... un po' come nel fioretto, no? Cioè... Non credo, minimamente, non so di quello che sto parlando. Cioè, parlo di videogiochi. È un nemico che ti fa un attacco e tu non solo non prendi danno, cioè devi l'attacco, ma usi lo sbilanciamento del nemico per aprirgli la difesa, insomma, avere esatto. Un'apertura per fargli molto danno. Se riesci a fare questa mossa con il giusto tempismo, riesci a interrompere l'attacco nemico, aprire le sue difese e fare molto più danno. E questa, per come l'aveva inteso Miyazaki, il gioco, cioè il creatore, doveva essere una delle meccaniche principali. E si può notare che in questa boss fight è pensata per far sì che, se uno vuole, come dire, avere un minimo senso di vera vittoria contro questa boss, se non vuole andare un po' alla cieca, poi sparandosi le cure nella coscia di continuo, perché iniettandosi queste fiale di curative nella coscia ogni volta che prende un po' di danno, deve per forza imparare un po' a usare questi parry. Ovvero, essendo proprio lui un cacciatore come te, e tu sai di essere, anche tu sei vulnerabile a questo tipo di combattimento, e lui proverà a usarli contro di te, questa stessa meccanica, tu sai che dovrai imparare a essere più bravo di lui nell'usare il parry per poterlo superare. E questo, come dicevamo, era la prima fase. Tu dici, ok, prima fase superata, ed è qua che c'è un po' il risvolto, che c'è anche, come dire, una parte un po' filosofica di tutta la cosa. Quest'uomo era un cacciatore che era stato però infettato dal sangue di bestia, e come gli altri abitanti di questo mondo si stava trasformando anche lui in una bestia selvaggia. Ed è la forma che assume durante la seconda parte di questa boss fight. Lui da cacciatore diventa un altro tipo di cacciatore in questo caso. Diventa la stessa cosa che il cacciatore stava cacciando, ma non per questo, in maniera meno pericolosa. E il suo stile di combattimento cambia completamente. Se prima era calcolato, anche lui rispondeva ai tuoi attacchi, in questo momento diventa molto più brutale e bestiale sotto certi punti di vista. Ed è qua che Miyazaki vuole essere sicuro che ha imparato ad affrontare prima le creature più simili ai cacciatori, ovvero quelle più ragionate che cercano di utilizzare una strategia, usando appunto il ripost. E dopo ti far vedere anche lo stile di combattimento delle creature più bestiali, che sono appunto quelle trasformate in bestia e... aggressive, meno tattiche, sì. Esatto. E quindi ti fa vedere i due volti di questo gioco in quest'unica boss fight che racchiude praticamente un po' tutto Bloodborne in questi 20 minuti di battaglia. E tu, se riesci a sconfiggere in maniera decente, appunto, senza sì. spammare le cure, padre Guascogno, allora, è una delle soddisfazioni più grandi, probabilmente. Mi sento, come dire... Prestivito. No, allora, però c'è da dire che nonostante io l'abbia, appunto... formaggiata, come dicono gli americani, cioè abbia fatto proprio l'abbia barata sta fight, comunque è un test bellissimo per dire ok, ora sei pronto al resto del gioco, cioè non sì. importa come lo affronti, è comunque una preparazione al resto del gioco, cioè è una specie di ok, se hai battuto questo boss, in ogni caso, comunque puoi andare avanti da questo momento in poi. E comunque l'ho finito, quindi non è che non ero pronto al resto del gioco. Questo, io ci tenevo a farlo per primo, perché era quello che volevo più o meno discutere un po' più in profondità, perché è probabilmente una delle boss fight più belle che abbia mai fatto, che ho sentito veramente, cioè c'era quella tensione nel farla. Perché era qui anche... venuto in mente adesso, se lo notavi, era proprio quella distanza giusta dall'ultimo checkpoint, punto di salvataggio, che erano anche, le lanterne in Bloodborne. era proprio quella distanza giusta, giusta, che dice: oddio, se devo rifarmi tutta la strada di nuovo, no, dai, devo farcela, per crearti quella tensione ancora di più durante la battaglia. E non è una boss fight impossibile, cioè, nel senso, non è che l'ho fatta 12 volte, ma non è neanche, non puoi neanche farla dal primo tentativo, di solito, non è banale. Quindi ci sta. Continuiamo. Chi va? Vai, adesso questo lo comincio da io. Per continuare un altro po' la serie dei Dark Souls, che come dicevamo è di quella che parleremo principalmente oggi, ne abbiamo qualcun altro da questi titoli. Non tutti sono degni di nota, altri sono un po' più banalotti, ma prendendo principalmente da Dark Souls 1, Bloodborne e Dark Souls 3, per dire le saghe, e forse anche un po' da Sekiro, probabilmente, ce ne sono alcuni molto degni di nota. Il primo è quello che forse più persone conoscono, perché magari anche quelli che hanno provato a iniziare Dark Souls e poi l'hanno abbandonato, hanno probabilmente incontrato l'Asylum Demon, il demone del manicomio, dei non morti, all'inizio del gioco. È letteralmente il primo boss di Dark Souls 1. Che è interessante per come viene utilizzato, perché non tanto per la boss fight in sé. La boss fight in sé è abbastanza ok, ma è interessante come viene utilizzato per introdurre il giocatore al mondo di gioco. È proprio all'inizio della partita che il giocatore entra in questa chiesa diroccata e all'improvviso, senza annunciarsi, proprio dal nulla, cogliendolo di sorpresa, vede cadersi di fronte questo gigantesco demone armato di mazza che probabilmente lo fa cagare anche, gli fa cagare anche un po' addosso al giocatore. Quindi, prima lezione di Dark Souls è: dietro ogni angolo aspettati qualcuno che vuole prenderti a botte, che è così. E seconda lezione, tu non puoi, di regola non riesci a non è l'ideale sconfiggere questo boss appena lo incontro. Infatti di lato c'è la possibilità di fuggire da questa boss fight per proseguire nella strada del tutorial, ottenere il tuo equipaggiamento e poi essere in grado di affrontarlo. Quindi sai che quando non riesci, un'altra lezione che ti dà è che quando non riesci ad affrontare un boss, probabilmente c'è un'altra strada da fare prima di poterlo affrontare. Due grandi lezioni di questo primo tutorial. E come utilizzino questo boss per insegnartelo è quasi... È quello, quando una cosa funziona non te la devono dire, te la fanno mostrare, no? C'era il classico detto show, don't tell nello spettacolo. E sì, nello storytelling della TV, del film. Esattamente, qua fanno la stessa cosa. Continuo io, perché non so... Sì, perché il prossimo boss... Io non ho giocato i DLC, quindi purtroppo non ho avuto esperienza. Nel DLC di Dark Souls 1 c'è un altro dei boss che viene più amato / odiato di tutta la serie. È Artorias, il Cavaliere dell'Abisso, che viene ricordato perché è una boss fight difficile, ma non come dicevamo prima, non difficile ingiusta, è una boss fight difficile ma fatta benissimo, perché è tutta una questione di precisione. Non è che non fa danni troppo grandi, i danni che tu gli fai non sono troppo pochi, non ti serve essere a un chissà quale livello, avere chissà quale arma per affrontarlo. Però il punto è che se lo vuoi fare bene, devi farlo bene. È proprio una prova di tempismi, precisione, imparare le sue mosse, imparare quali sono le sue varie fasi del combattimento. È una piccola opera d'arte di nuovo. Ok, ed è anche bella secondo me come boss fight. Io l'ho solo vista fare da Sabaku, perché ha un sacco di peso a livello di storia, cioè per me è una delle poche boss fight nel primo Dark Souls che ha peso per molti giocatori, anche quelli più disattenti, quelli più per qualche motivo non molto consapevoli di quello che sta succedendo, perché è collegato ad un boss memorabile che è stato uno dei primi che mi sono ricordato, non un boss particolarmente difficile, anzi forse uno dei più facili, se sai come affrontarlo. No, non se sai come affrontarlo, se... come posso dire? Se intuisci durante la fight qual è la posizione migliore dove colpirlo, okay. Cioè Sif. Sif è un cucciolotto, è un lupacchiotto enorme, alto circa 12 metri, con una spada in bocca, che, vabbè, già, diciamo, per la forma che assume, cioè il fatto di essere un lupo, lascia subito intuire che c'è qualcosa in più, ma soprattutto il luogo dove si trova, che è una tomba. Ed è uno di quei boss, come dicevo prima, che più incarnano quella sensazione di senso di colpa, di dubbio, di cosa, cioè di farti dubitare di quello che stai facendo, se tu sei davvero l'eroe della tua storia, o se stai semplicemente facendo un gran casino, uccidendo dei lupi che hanno questa fedeltà eterna verso il loro padrone. Padrone che in realtà è Artorias, la tomba, diciamo, fasulla, la tomba di Artorias a cui stava facendo la guardia. E anche Artorias ha la stessa sensazione. Cioè, quando ho visto quella fight, c'è questa sensazione di tragedia, del doverlo uccidere, perché in realtà non è più in sé, perché per l'abisso e tutta quella storia lì. Quindi, anche per me, che non ho letto un cazzo di Dark Souls, che so veramente il minimo, mi ha lasciato veramente, boh, sì, diciamo che sono quei giochi che raccontano i boss. No, cioè, sto dicendo che non... che raccontano i boss, secondo me, anche per chi non è attento. Cioè, anche semplicemente con un veloce filmato, anche semplicemente con il design, ti danno tutto quello che devi sapere, spesso, di quel boss. Che è una cosa rara. Il prossimo non sarebbe dei Dark Souls, ma io lo sposterei un po' più in basso. Secondo me facciamo allora parliamo, bene, parliamo prima degli altri, sì sì. Esatto, okay. Io mi tenerei prima tutti quelli della From Software. Ok, ci ok, siamo. Ci siamo, sì sì, va bene. Allora continuo un attimo io, faccio quelli di Sekiro, poi magari fai tu quello di Dark Souls 3. Un po', ci sentiamo, non ti vedo fermato, arrivo io. Ok, allora parliamo quindi di Sekiro. Un attimo, poi continuiamo con Dark Souls. Sekiro è secondo me l'apice del From Software, cioè del gioco From Software, pur essendo quello più diverso. È l'unico gioco From Software per me, personalmente, che vorrei rigiocare, anche in parte per i boss, per i design dei boss. È un gioco dove... con il passare del tempo non guadagna il tuo personaggio, cioè il tuo personaggio sì, un po' migliora come salute, come potenza d'attacco, ma sei tu come giocatore che impari a leggere gli avversari, a schivare, a contrattaccare, a parare, ed è questo design è incarnato nei boss, che sono veramente nel design, nella meccanica, sono tutti quasi tutti bellissimi, a parte qualche eccezione. Degli esempi sono Lady Butterfly, che è uno dei primi, che è uno dei boss che ti insegna un po' il ritmo della fight, la schivata, il fatto di dover bilanciare il danno alla postura, perché praticamente in Sekiro c'è la barra della salute, come in tutti quanti i Souls-like, in quasi tutti i giochi dove c'è un boss del boss, ma sia tu che il boss avete anche una barra della postura. Ne abbiamo già parlato, penso, in un altro episodio. Praticamente attaccare spesso il boss, metterlo sulla difensiva, schivargli gli attacchi, lo affatica, e quando questa barra della... quindi questa barra della postura si riempie, quando si riempie, apre il boss a una specie di attacco fatale, che spesso non è l'attacco fatale, nel senso che lo ammazza, però gli toglie una barra della salute e si passa alla fase successiva, una specie di punto e virgola nel punto e virgola, diciamo, questa cosa. E più il boss ha salute bassa, più questa barra della postura si rigenera lentamente. Quindi devi un po' equilibrare, no? Perché sì, puoi attaccare per la salute, però spesso sono attacchi più rari, più difficili da fare. E Lady Butterfly è il primo nemico che ti insegna un po' a dover equilibrare le due cose, insomma, a dover anche mantenere un po' la pressione, a capire, a leggere cosa sta per fare l'avversario. Insomma, è veramente interessante ed è anche una di quelle boss fight dei Souls-like dove se ascolti quello che dicono gli NPC, se leggi le descrizioni degli oggetti, puoi usare degli oggetti per renderla un po' più affrontabile, diciamo. E quindi è molto bella. Poi c'è Guardian Ape, che penso sia una delle più memate su internet in generale, piena di meme questa boss fight, ma in realtà è molto, molto tosta. È una boss fight dove ti devi battere contro una gigantesca scimmia, tipo mezzo gorilla albino, che è molto veloce, aggressivo, molto cioè che riesce comunque sempre a venirti addosso, a farti attacchi così di continuo, ma è anche allora, diciamo, vai, stavo per... parlavamo l'altro giorno, no, di questa, della famosa dissonanza ludonarrativa, giusto? Sì. Ecco, questo invece io lo metterei come perfetto esempio in cui non c'è questa assonanza ludonarrativa, quasi la chiamerei. Che appunto la cosa clamorosa di questa boss fight è come a un certo punto ribalti un po' una di quelle che è diventata una regola non scritta del gioco, ovvero che a un certo punto della battaglia, la battaglia, tra virgolette, finiva. Aspetta, prima di fare quello. Prima okay. di. Cioè, parlo della battaglia in generale. Mm. Durante il combattimento è anche. Come posso dire? Divertente. Cioè, è anche ridicolo a un certo punto perché, come molte scimmie fanno, uno degli attacchi di questa Guardian Ape è cagarsi in mano e tirarti la cacca. Ed è una cosa che pochi giochi possono fare mantenendo la serietà dello scontro. Cioè, comunque. È bello perché questa scimmia si mette la mano sul culo e pensi, oddio, che sta facendo? Non ho mai visto questo attacco. Ti tira la cacca e ti viene da ridere, poi la cacca ti colpisce, ti fa un culo di danno, ti avvelena e lì capisci, oh cazzo, questo è un altro attacco serio. Cioè, non è una cosa per ridere, è una cosa seria, cioè è una mossa legale, tra virgolette, di questo boss. Comunque sì, scusa, dicevi, a un certo punto sconfiggerai prima o poi questa Guardian Ape. Come dire, arrivi a un certo punto della battaglia in cui pensi, che qua è proprio un grande spoiler, qua non volevo proprio farla del tutto, però diciamo che arriva a un certo punto... Dillo, dai, sti cazzi, giocate a Sekiro, fanculo. In cui si sconfigge questo avversario, si pensa di averlo vinto, quando, per poi solo semplicemente ritrovarselo di nuovo di fronte, perché a quanto pare questa scimmia aveva, come dire, era più difficile da uccidere di quanto non si pensasse. Oltre a soverchiare questa più che regola del gioco, era un'abitudine che ti eri formata, no? Ti hai detto, ok, a questo punto la battaglia è finita, mi posso rilassare, e c'è questa scoperta del no, te lo mettiamo di nuovo un po' nel di dietro, che ti fa cagare un po' in mano la prima volta, perché di sicuro non te l'aspettavi. Letteralmente, sì. Quello lì è un buon modo di utilizzare una meccanica che si era creata nel gioco, ma che non era scritta che ci dovesse per forza funzionare così, per ingannare il giocatore e fargli provare di nuovo questo un altro momento di paura, di tensione. Ma non solo, questa cosa è giustificata dal gioco quando scopri poi tutta la storia del perché alcuni esseri sono più difficili da uccidere di altri, ed è, io credo che qui venga, qua è proprio l'apoteosi di tutto ciò, di questa fusione tra narrazione, esatto, e videogioco. Questa e poi è scopri una delle... esatto, poi scopri anche cosa stava proteggendo, insomma. Vabbè. Comunque, beh, per finire il discorso Sekiro, un altro boss secondo me bellissimo, però magari ne parleremo meglio in futuro, è Isshin the Sword Saint, che è l'ultimo boss di quasi ogni run, e La cosa che voglio dire di questo boss velocemente è che è un po' il culmine di tutte quante le meccaniche, di tutte quante le cose che hai imparato. È un boss non particolarmente impossibile, ma molto difficile, molto anche, diciamo prima, molto, molto ben raccontato all'inizio nella cutscene, nel filmato iniziale, quando compare alla fine. E è anche lì una sovversione delle aspettative del giocatore, che si aspettava fino a quel momento una certa cosa, un certo boss, e poi alla fine viene un po' ribaltato. Non voglio dire altro. Bellissimo anche la... Sì, non spoileriamo nulla di quello. Anche l'arena finale è stupenda, e non voglio dire altro perché non voglio spoilerare. E altro... Vorrei citarne uno mio personalmente, di Sekiro, che a me è piaciuto particolarmente, sia proprio come boss fight che come... diciamo un po' quello che rappresenta, in realtà no, perché forse è uno dei personaggi in cui viene raccontato un po' di meno, è un po' più volto dal mistero, ma il gufo, il personaggio del gufo, no. Vabbè, sì, scusa, vai, dillo, però non dire tutto. No, ovviamente volevo solo dire che secondo me, si può dire che cos'è il gufo, perché quello viene rivelato all'inizio del gioco. Il gufo è uno shinobi, ovvero il guerriero ninja, no, per l'eccellenza. Proprio il Naruto, però un po' più... bambini super cazzuti, un po' più serio, per così dire. Lo shinobi, appunto, è quel ninja che utilizza tutte quelle tecniche un po' arcane, un po' segrete, i trucchetti per conquistare i suoi nemici, nel senso per scominare i suoi nemici. Io credo che la boss fight del gufo sia, nella sua boss fight il gufo sia rappresentato benissimo sotto questo aspetto, perché il gufo è un boss che cerca di ingannarti, cerca di imbrogliarti, facendoti pensare magari di essere in vantaggio e poi mettertela di nuovo in quel posto lì, come dicevamo sempre. Proprio è l'unica boss fight che mi viene veramente in mente in cui il boss fa le finte, cioè non so come altro dirlo, fa proprio finta che sì, è vero, appunto, finge di stare male, di che tu lo abbia sconfitto, per poi riprendersi e continuare a combattere. Cioè, anche quello lì l'ho trovato veramente fenomenale. Come è anche una delle grazie, mi ricordo, perché è anche una delle poche boss fight dove ti toglie la possibilità di rigenerarti in alcuni punti, cioè non ce ne sono tante. Però prima di continuare, io direi che mi sa che abbiamo già fatto tipo mezz'ora con solo questi primi boss, quindi forse dobbiamo anche sbrigarci a un certo punto, quindi allora velocemente, Ornithine e Smog, bellissima fight, ti insegna a gestire due boss allo stesso momento, quando ne batti uno alla Artorias, direi, di come Dark Souls. Esatto. Bellissima anche il fatto che appena ne sconfiggi uno, l'altro assorbe, diciamo, l'essenza, proprio anche in senso di moveset dell'altro. Quindi vabbè, la lascerei così come bella boss fight, ma niente di, diciamo, troppo da ricordare. Così io poi direi King, che diciamo da Dark Souls 3, che boss fight interessante, anche quello molto tecnica, all'Artorias, all'Orsanet Mo, ma anche come epicità, come significato che c'è, sì, dietro a tutto quanto, a questo personaggio misterioso che a un certo punto scende dal cielo in groppa a questa gigantesca creatura. Spettacolare davvero. E proprio lì, i cori gregoriani si sprecano in quella battaglia. Che spettacolo, mamma mia. Ok. Poi, di Dark Souls, ovviamente di questi belli, poi sì, ce ne sono un miliardo di belli in Dark Souls. Tutti i boss da solo hanno un voto superiore alla media, e questi qua hanno i voti più alti, quindi ci siamo A parte un boss che citeremo dopo. Ne parleremo dopo. Per continuare, io dico velocemente alcuni che me l'hanno venuto in mente parlando di bei boss che ci sono rimasti impressi. Direi allora Deathstroke in Arkham Origins, quindi andiamo oltre i giochi Dark Souls. Allora, Arkham Origins, cioè i giochi della serie Arkham di Batman, sono giochi che sono diventati abbastanza famosi per aver rivoluzionato il sistema di combattimento, diciamo, dei beat'em up, cioè dei darsi cazzotti, insomma, perché ha un po' introdotto questa idea del contrattacco, del nemici, cioè è tutto molto semplificato, ma secondo me nasconde tanta profondità nella sua semplicità, che è un po' la cosa che si è persa poi in molti Assassin's Creed e in molti altri giochi che hanno questo sistema, perché Batman ha sempre comunque reso interessante il combattimento. Se volevi trovare una difficoltà, c'erano delle sfide molto difficili, dei nemici che ti toglievano delle possibilità di contrattaccare, di scavalcarli, di attaccare direttamente, o magari erano tantissimi nemici che ti attaccavano insieme, quindi dovevi riposizionarti, usare gadget, e Deathstroke è un po' quello, cioè una boss fight che ti costringe un po' a davvero avere una conoscenza abbastanza tutto tondo di quello che è il sistema di combattimento della serie Arkham. Quindi non è difficile, perché i giochi Arkham non sono difficili, però è bello, è una bella boss fight, e lui tipo perde pezzi mentre lo ammazzi così. Velocemente anche un'altra, la boss fight finale di Link's Awakening, molto bella a livello tematico, a livello anche di... Purtroppo non posso dire niente, perché se dico qualcosa spoilerò tutto, cade tutto come un castello di carte, però giocate Link's Awakening, c'è cioè il remake su Switch, e questa boss fight finale è un po' un culmine, riprende un po' tutte le boss fight, ed è anche bello vedere quanto sono più facili anche per merito tuo, non per merito dei gadget che hai. Se vuoi andare avanti un po' tu adesso, che ho parlato un po' troppo. Okay. Io volevo citare un po' tutti i boss di Zelda Twilight Princess. Parlavamo prima di boss fight più come puzzle che come boss fight vero e proprio. Secondo me quelli di Zelda, soprattutto di quelli intorno a quel periodo lì, quelli di Twilight Princess, secondo me sono stati abbastanza l'apice, ma rappresentavano veramente le boss fight puzzle meglio riuscite, secondo me, della saga. Ovvero quelle boss fight in cui dovevi più analizzare l'arena e il boss stesso e capire quali oggetti usare, come utilizzarli per poterlo sconfiggere. Non era una vera e propria questione di danni. E niente, io penso che i più memorabili siano quelli di Twilight Princess. Dopodiché vorrei citare il Rathalos di Monster Hunter. Parlavamo di un gioco fatto interamente da boss, in cui questi giganteschi mostri dovevano essere affrontati e uccisi da questo piccolissimo cacciatore messo a confronto. E niente, il Rathalos è quel classico, è quello che si avvicina un po' di più, diciamo, alla immagine classica del drago, no? Questa creatura alata che sputa fuoco, di colore rosso, estremamente aggressivo, ed è una di quelle battaglie, anche qua, molto tecniche, molto interessanti, che una volta che all'inizio, la prima volta a vederlo, ti spaventi in maniera assurda, e poi, ma una volta che hai imparato come funziona, quali sono le sue mosse, qual è il suo moveset, qual è il suo comportamento di questa creatura, dopo riesci a capire come affrontarla meglio, ed è una soddisfazione pazzesca. Tra l'altro è stato tipo il mostro iconico del gioco dal primissimo titolo, quindi ci sarà un motivo. Poi faccio ancora un paio io, direi che i colossi di Shadow of the Colossus sono anche qua delle ottime rappresentazioni di battaglia puzzle. Lì non so cosa dire, sono... Mamma mia! 16 giganteschi colossi, non sono creature, sono colossi, una cosa a sé stante, in cui tu che tu devi affrontare in questa terra sconfinata e con a disposizione solo una spada e un arco. Quindi sono dei puzzle su gambe, non so come altro definirli. Sì, sono anche, però cioè, sono anche delle creature, sono anche... Sì, poi dopo il significato che c'è dietro lì, dopo andiamo a spoilerare proprio completamente. Cioè, mamma mia. Colosso, cioè, questi... Come è fatta poi la visuale, la musica, l'ambientazione, l'epicità di questi... Mi piange il cuore a ripensarci. Mamma mia. Vuoi fare qualcuno tu? Sì, velocemente, vabbè. Ci sono alcuni boss di Ninja Gaiden che mi sono rimasti abbastanza impressi, tipo il dinosauro, lo scheletro, manco mi ricordo come si chiama, o anche il primo boss che poi andremo a parlare di quelli brutti, però quello secondo me è bello di Ninja Gaiden, che è rimasto proprio nell'immaginario collettivo, anche a volte senza saperlo, è Masakado, che magari adesso vi dico il nome e voi non lo sapete, perché neanche io lo sapevo in realtà prima di andarlo a cercare, però se vi faccio vedere un'immagine magari lo ricollegate a tanti boss di altri giochi, incluso anche Sekiro, perché essenzialmente è un generale samurai a cavallo che in mezzo a un villaggio in fiamme, quindi è un po' quell'immagine del nemico onorevole, della battaglia comunque anche non equilibrata, perché essenzialmente una persona a cavallo ha più mobilità, ha più possibilità di attaccarti e anche non lo so, a livello di trama molto bello, cioè mi è rimasto impresso. Vabbè, all'epoca è molto ispirata, immagino, questa qua. Esatto, tra l'altro c'è un runner, l'altro giorno ho visto la run che attualmente è il world record di Sekiro, 20 minuti e 39 secondi, non so, è un mostro. E la battaglia di quel nemico, di non mi ricordo come si chiama, il generale, non mi ricordo il nome, vabbè. Però è bellissimo perché la battaglia inizia con lui che entra e dice come si chiama. E il runner c'ha il parlato in spagnolo. Quindi tutti quanti in chat, prima che entra il tizio, scrivono «Me llamo!» e poi sente lui che entra «Me llamo!» e senti tipo in lontananza il tizio che cavalca, è bellissimo. quindi vabbè, Masakado. Altra menzione d'onore, perché il gioco è bellissimo e anche questo andrebbe menzionato in ogni cazzo di episodio, Undertale. Le boss fight sono stupende. Undyne, Flowey, ma anche Sans e Asgore e Toriel. Sono tutte boss fight che rimangono nel cuore, specialmente a me è rimasta nel cuore quella di Asgore, perché ha un po' quella epicità, quel senso di tragedia di Dark Souls, quel senso di pesante, ha il cuore pesante a doverlo affrontare. Questi giochi che servono solo a distrarsi, poi giusto che... Poi vabbè, non voglio parlare della vera battaglia finale della run pacifista, andate a giocare da Undertale, l'ultima battaglia della run pacifista mi ha devastato, sono stato male un'intera serata, cioè sono stato veramente... non c'è nulla da dire, come dice Asgore, non c'è più nulla da dire. Fai anche quello di God of War che poi dopo concludo io. Ok, ah poi dobbiamo... Sì, infatti quello discutere. Quello alla fine. Quello lasciatelo alla fine e così discutiamo. Sì, allora, finisco con il secondo punto. Finisco con God of War. Le Valchirie sono un esempio di una cosa che criticherò nell'ultima parte di God of War, cioè come ripetere un boss, cioè avere lo stesso boss più volte nel gioco. Ed è bellissimo secondo me perché comunque sono tutti quanti difficili, sono tutti quanti comunque non impossibili se affrontati a livello corretto, e tutti quanti sono riconoscibili, cioè hanno un moveset diverso, sono simili, ma c'è qualcosa che le distingue. E l'ultima Valchiria, non so come si dice in singolare, però Valchiria. L'ultima, la regina delle Valchirie è una specie di somma delle Valchirie più, secondo me, importanti, più riconoscibili, quindi ha il moveset mischiato e la rende una battaglia veramente intenzione, cioè che per 10 minuti devi stare interamente concentrato sul nemico, esattamente devi capire cosa sta facendo, cosa vuole fare, cosa farà, ed è veramente intensa e bellissima come effect, è veramente anche bella a livello tematico. Ok, invece vorrei concludere con un altro paio di boss. Uno che mi è rimasto particolarmente in mente è Jubileus, Jubileus, non mi ricordo come si chiama in italiano, dal gioco Bayonetta. Ora, Bayonetta è un po' un genere a sé stante quasi di gioco. Può essere visto... Platinum. è Platinum Games, quindi Devil May Cry e quei giochi lì, quindi... Il punto è che l'ambientazione del gioco, il protagonista, l'autore ha voluto sparare tutto al massimo, non saprei come altro definirlo. Quando poteva fare qualcosa di più eccessivo, ecco, l'eccesso è l'emblema un po' di questo videogioco. E penso che finisca tutto in questa apoteosi, per restare in temi del boss finale, in cui tu, protagonista, appunto Bayonetta, questa strega millenaria che si è risvegliata dopo tanto tempo, affronta questo essere divino, letteralmente una divinità nello spazio, poco al di fuori dell'atmosfera terrestre, e la battaglia si conclude con te che fai precipitare questa entità dentro il sole, giusto per dire, spoiler, però voglio dire, sembra Bayonetta questa cosa. Quante volte ti capita di uccidere un boss facendolo schiantare contro un sole? Voglio dire, è quindi abbastanza memorabile questa boss fight. Un altro gioco che abbiamo già citato poco fa, come dire, molto incentrato sui boss, che utilizza la meccanica del boss molto bene, è appunto Hollow Knight. Questo piccolo è stato definito Metroidvania. E non lo so, è il Dark Souls dei Metroidvania. Beh, è appunto il Metroidvania dei Dark Souls. Esatto. È questo Metroidvania con un combattimento molto più complesso, secondo me, è rifinito. E due dei boss che restano di sicuro in mente quando lo si affronta sono le mantidi religiose, che è una battaglia molto intensa contro prima uno, poi due avversari, quindi anche questa qua in due fasi, in cui è molto chiara, è molto capibile, ma allo stesso tempo comunque difficile, è come cercare di seguire quasi un gioco un rhythm game in quel momento, no? Devi cercare di mantenere il tempo, non sbagliare le mosse, a volte ti puoi confondere e sai che uno sbaglio può essere letale. E quindi la tensione aumenta molto durante quella battaglia. E l'ultimo è appunto il boss che dà il nome al gioco, che è appunto l'Hollow Knight, che è il boss in una dei finali, è il boss finale del gioco. E semplicemente questo è interessante perché anche qua è una battaglia su più fasi, con molti tecnicismi, molti momenti tecnici in cui devi riuscire a mantenere il ritmo della battaglia, eccetera, eccetera. Ecco, questa era un po' a metà. Ecco, un ottimo esempio di una battaglia a metà tra un puzzle boss e un boss, un normale boss con le statistiche. Era molto interessante. E poi, per riagganciarci a questo punto, alla seconda parte degli esempi... Seconda fase con i boss. Seconda fase dell'esempio, sono i boss che secondo noi non sono venuti proprio un granché. Qui però iniziamo con una cosa controversa. Esatto. Qua io e Jacopo, quando avevamo fatto questo elenco, avevamo parlato di... era venuto in mente entrambi un boss, però nella categoria, in una categoria diversa per entrambi. Jaron Nammir, un boss di Deus Ex Human Revolution, questo... Aspetta, prima. Deus Ex Human Revolution è un gioco RPG, stealth, quindi cioè molto incentrato sulla furtività, che però puoi anche affrontare, diciamo, sparatutto, ammazza. Dove puoi personalizzare il tuo personaggio, eccetera. Nella prima versione di Deus Ex Human Revolution, che è quello che ho giocato io, tutti i boss, l'unico modo per affrontarli era spararli e basta, cioè potevi solo andare di dritto e spararli, quindi erano essenzialmente boss per delle build, cioè tra virgolette per dei personaggi, delle scelte più incentrate all'azione. Come, scusa? Più incentrate all'azione, cioè più se avevi un personaggio, se avevi di fatto delle scelte più per l'attacco frontale, eri avvantaggiato. Io no, io build stealth furtiva, proprio al contrario. Ok, quindi sì, difetto di design a parte. Io, infatti, questa battaglia, questo boss, non lo metto tra quelli che mi sono piaciuti per la battaglia in sé. La battaglia in sé era ok. Appunto, come diceva Jacopo, se la tua build non era proprio aggressiva nella prima versione, poi è stata corretta nella Game of the Year, no, non Game of the Year, tipo Director's Cut, una cosa del genere, il boss poteva essere un po' una spina nel fianco da affrontare. Tuttavia c'era questa meccanica, appunto, di una tua scelta precedente nella storia che cambiava completamente il modo di affrontare la boss fight. Se a un certo punto della storia tu accettavi di farti impiantare un microchip nel cervello, molto semplificata, ma così. No, esattamente così. A un certo punto, durante questa boss fight, se non avevi deciso di farti impiantare il microchip, era una boss fight abbastanza normale. C'era questo tizio che un po' si nascondeva in una stanza con delle statue che un po' gli assomigliavano. È complesso da spiegare, ma... No, beh, se boss, avete presente... come si chiamano? La mossa quella lì, Bodies... vabbè, quella dove sono tutte quante persone senza pelle, dove vedi tutti i muscoli... quello essenzialmente, il boss sembra una specie di persona senza pelle, si vedono tutti i muscoli, i tendini, le cose. E che potevano appunto farti sbagliare un po' il bersaglio da seguire. Se invece venivi, ti facevi impiantare questo chip, il chip a un certo punto ti sminchiava il cervello, tu vedevi tutto appannato e dopo la boss fight diventava un vero e proprio inferno, perché con questa visuale appannata, queste statue che un po' somigliavano al tuo nemico, non riuscivi davvero più a capire quale fosse che cosa, e secondo me era assolutamente in atmosfera e molto memorabile come boss fight. Per questo io la metto tra le buone, perché io sono stato uno di quelli che si è fatto impiantare il chip come un... Il problema è che anch'io ero uno di quelli. Il problema è che il chip ti disabilita tutte quante le abilità che hai, tutti quanti i potenziamenti che hai, quindi sei essenzialmente solo un uomo che vede roba strana, tipo kaleidoscopi, no. Mi ha fatto... lo so, allora abbiamo due opinioni diverse. Assolutamente. Cioè, infatti, a me non è piaciuta come boss fight. Infatti, detta così, non sarebbe è una di quelle meccaniche che ti dà più fastidio. Cioè, a un certo punto del gioco, basta, ti tolgo delle cose che sai fare, ti porto indietro di qualche livello, tutto quello che hai guadagnato non ce l'hai più. Io non so perché questa qua, in questo caso, mi è piaciuta, perché su carta non mi dovrebbe piacere. Però si è stata abbastanza integrata giustamente con la storia, con una scelta che ho fatto io in maniera sbagliata e che effettivamente, se uno faceva un po' di attenzione, poteva anche intuirlo da tutto lo sviluppo della storia, che quella non era la scelta giusta da fare, ha contribuito a creare questa situazione in cui non ero troppo arrabbiato che mi avessero tolto le cose così, perché non era stato, tra virgolette, una mia scelta, un mio errore. Quindi, non so, mi ha reso questa battaglia ancora più interessante. Non sono d'accordo e voglio andare avanti. Okay. Parliamo di un altro gioco. Prima però dico questo. Come? Chi lo sa, a volte buone, a volte cattive, solo... dico solo questo. Secondo me, cioè, il tuo personaggio Jensen non poteva sapere che quel chip era poco... cioè, non ti dovevi fidare di quel chip di quell'azienda, in quel momento in cui ti viene chiesto di impiantarlo, e tu come giocatore potevi anche scegliere di non metterlo perché tu non ti fidavi. La cosa secondo me sbagliata è quanto la boss fight, perlomeno per me, fosse molto più difficile, fosse quasi impossibile, senza nessuna abilità, senza sapere che dovevi portare delle armi un po' più potenti e letali. Io alla fine, ti giuro, ho dovuto caricare un salvataggio precedente, sollevare una torretta e portarla dentro la zona della boss fight con un ascensore. Io questo così l'ho battuto, perché altrimenti non si può, cioè non riuscivo proprio a fare nulla. Mi one shottava il boss, e one shottava vuol dire mi uccideva con un colpo, e quindi niente, vabbè. È una questione di gusti. I prossimi boss sono tutti abbastanza oggettivamente d'accordo sul fatto che non sono venuti bene, proprio no. No, decisamente no. Quindi. Puoi fare tu qualcosa o vado io? Comincia tu, dai, il primo era tuo, quindi. Ah, faccio i mini due velocemente. Primo boss Ninja Gaiden è leggendario perché è il boss più difficile del gioco, e ve lo spoilero perché il gioco ha tipo 18 anni ormai. Ninja Gaiden su Xbox hanno dovuto rifarlo, cioè ne è uscito un altro dopo, Ninja Gaiden Black, che è lo stesso gioco ma ribilanciato, perché penso sia uno dei giochi con la curva di difficoltà più schizofrenica della storia, perché il primo boss è il boss più difficile del gioco ed è quasi uguale all'ultimo boss, perché è la stessa persona in realtà, spoiler. Solo che nella prima boss fight tu non hai niente, non sai nulla, sei un cesso. Cioè a livello di tecnica e anche di cose che puoi fare, di oggetti che hai, non hai nulla. Le armi che hai sono, penso, una o due. Il boss è spietatissimo ed è tutto solamente il boss finale del tutorial per vedere se sei bravo. Ma è veramente troppo, troppo, troppo difficile. Cioè mi ricordo la prima versione di quel boss... penso, cioè eravamo io e un mio amico a giocare, lui era quello più, diciamo, bravo meccanicamente, quindi era lui che lo stava affrontando, io facevo tipo copilota, ma ci abbiamo messo penso 20 tentativi, 30 tentativi a ucciderlo, è una cosa, mamma mia. Lasciamo perdere, perché poi gli altri boss sono pure lì, come si dice, una montagna russa. Secondo me un altro boss che è leggendario per quanto è brutto è Tartarus in Halo 2. Perché sì, a quanto pare esistono i boss in Halo. Ed secondo me è stata la scelta sbagliata metterli, perché in Halo 1 era tutto molto arena, tutto molto basato sugli incontri, su come affrontare un insieme di nemici, tutti molto diversi fra di loro. Il boss finale di Halo 2 è veramente... Ci sono altri boss prima, ma sono ridicoli per quanto sono facili, o almeno a difficoltà normale o eroica. Difficoltà leggendaria, che è quella un po' più impossibile, Halo 2 è ingiocabile, ma quello sarà un altro episodio. Okay. Tartarus è un nemico mai incontrato, per quanto è poco leggibile quello che devi fare, ed è ridicolo come è fatto tutto l'incontro, secondo me. Rispetto ad Halo 3, dove i boss sono molto più parte della sandbox, ne abbiamo già parlato, la differenza fra lo Scarab in Halo 2 e lo Scarab in Halo 3 negli altri episodi, andatevi a sentire. Però dico solo questo, Tartarus è proprio un errore. Secondo me è un modo per fare un finale, per dire ok, adesso Halo 2 deve finire perché abbiamo finito i soldi. Come errore forse sono stati anche un po', come dire, tutti i boss di Minecraft, che alla fine i boss di Minecraft sono stati messi perché, come dire, la gente si lamentava che non ci fosse un finale del gioco, il primo boss è stato messo che era l'Ender Dragon, e solo che il punto è questo, Minecraft non è pensato proprio come un gioco di combattimento, quindi si può immaginare che i boss, che dovrebbero essere battaglie interessanti, non possano essere sfruttati alla meglio. Poi in qualche modo si fanno funzionare, però risultano sempre un po' macchinosi e ti lasciano un po' di amaro in bocca, ogni tanto sì. Buggano anche il gioco, sì. Sto correndo perché il tempo sta finendo a nostra disposizione. No, vai tranquillo. Poi un altro che viene citato molto spesso e giustamente è guarda, in questo caso non ce l'aspettavo, forse voi pubblico non ve l'aspettavate, ma anche Dark Souls ha dei boss fatti male. Ah, parliamone. Ma questo sia ben chiaro, succede solo nel primo e nel secondo Dark Souls. Uno, perché nel primo a fine gioco non avevano più tempo né fondi a disposizione per finirlo, quindi molti dei boss, se i boss della prima metà di gioco sono fantastici, i boss della seconda metà di gioco sono abbastanza... Oddio, è vero, non ho notato solo questo ora. Questo infatti è spiegato dal motivo che il team di sviluppo a quel punto ha dovuto rushare un po' le cose, non avevano più finanziamenti, stavano finendo i soldi del finanziamento, dovevano pubblicare questo gioco, i boss finali non sono proprio puliti come tutto il resto. Quello più famoso è la Culla del Caos, che è un classico esempio di quei boss ingiusti, in cui la difficoltà è ingiusta, semplicemente tu devi riuscire a divincolarti da questa gigantesca creatura che ti può far buttare in un baratro senza fine a ogni attacco, semplicemente, molto spesso un attacco significa la morte, e tu devi riuscire semplicemente a schivare i suoi attacchi per arrivare ai suoi punti deboli, colpirli e poi in maniera molto proprio anticlimax, cioè... Sì, sì, è una delusione per tutti i sensi, cioè è ingiusto. Tiri un pugno a questa creaturina che è poi come dire, la fonte di tutta la cura del caos, di tutti i demoni di questo mondo, e questa muore, fine. Nulla sì. Di troppo entusiasmante. Un altro che vogliamo citare è Alduin, del videogioco di Skyrim. No, aspetta, prima parliamo dell'altro boss deludente di Dark Souls, l'altro boss brutto. Ok, sì, più specifico, chi è Sith? No, quello di Dark Souls 2. Ah, scusami, hai ragione. Che avevi detto poi... No, hai ragione. In Dark Souls 2, ecco, Dark Souls 2 io sono molto di parte per Dark Souls 2, perché io non lo considero neanche un soul Dark Souls. Oddio. 2, ma quello sono io. Adesso l'avevo già detto in altri episodi, quello può starci. Però, ecco, per esempio, tu hai citato anche, l'avanguardia dei ratti, ovvero un boss, tra virgolette, che in realtà era più una marmaglia, un branco di ratti inferociti che aggrediva il giocatore, e tu dovevi capire quale in mezzo a questi ratti quasi completamente identici fosse, come dire, il loro capo, che era quello con i capelli più strani. Era, come al solito, era quello degli anime, quello con i capelli strani. E quello, dovevi guardare la capigliatura, e niente, uccidendo quello avresti vinto la battaglia. Mi ha fatto schifo quel boss. Ci può stare, lì non, devo ammettere che Dark Souls 2, al contrario degli altri, ricordiamo che non è stato seguito da Miyazaki Dark Souls 2, perché lui si stava occupando di Bloodborne in quel momento, guarda caso, è diverso e non ha tra i boss più riusciti. Questo, diciamo, se Dark Souls 1 e 3 sono dei 10, Dark Souls 2 è un 8 e mezzo, diciamo, ed è un gioco diverso. Per me è anche più un 7, ma quello sono io che sono. Un altro boss da citare probabilmente è Alduin, quello che dovrebbe essere il boss finale, se non sbaglio, di Skyrim, giusto? Sì, la storia principale di Skyrim. Esatto, quindi trama, tutto il mondo sta finendo, i draghi, cazzi e mazzi, e poi voglio dire, già il combattimento di Skyrim non era riconosciuto per il combattimento, diciamolo solo così. No. Il combattimento funzionava, però non alla meglio. Quindi di nuovo ci troviamo in una di quelle situazioni in cui bella tutta la storia, tutta l'ambientazione, il nord, l'impero e chi che sia, poi però alla fine la battaglia finale sei tu che cerchi, che spammi ripetutamente il pulsante sinistro e destro del mouse, oppure un po' di incantesimi e la battaglia è finita. Sì, è solo un altro drago, è quello, sì, secondo me il problema, cioè non è... ho voluto fare tutto così non generalizzato, però come dire sistematico in Skyrim, tanto da non riuscire per il boss non ha identità. È un altro drago che comunque scala la difficoltà per raggiungere il giocatore, perché il giocatore magari ha fatto altre robe, cioè ha finito tutto il gioco e poi ha ucciso Alduin alla fine a livello 100. Quindi giustamente non è facilissimo, ma non è neanche, boh, diverso, bello, non lo so. Infatti, secondo me la stessa cosa è anonimo. Ed è lo stesso problema che hanno molti giochi con i boss finali, ne parleremo in un episodio a parte. Vabbè, sui finali. Chiudiamo, che mi sa che dobbiamo andare tra poco. No, vabbè, ma tranquillo. Fable 2 ha un po' lo stesso problema, dove l'ultimo boss è deludente, nel senso che viene un sacco caricato durante il gioco questo personaggio che ti ha ucciso la sorella, ha devastato l'universo, così. E poi alla fine è una cazzata, cioè alla fine non devi fare nulla per sconfiggerlo, nonostante sia anche abbastanza minaccioso durante il resto del gioco. E un altro problema che molti giochi hanno è che rovinano boss precedenti riutilizzandoli sempre uguali, come God of War. Dicevo prima, le Valkyrie erano fighe perché le cambiavano. Purtroppo God of War, dico quello del 2018-2019, ha anche il problema, diciamo, simile. Cioè, ha anche il problema derivato dall'usare gli stessi boss sempre, cioè la ripetizione. Alla fine rovini l'esperienza del primo boss riutilizzandolo più volte, tipo 3-4 volte. Vabbè, ok. E siamo arrivati a questo punto, al momento che tutti stavano aspettando con ansia, no? Kept you waiting, huh? Esatto, dopo questa sigla... Io ogni volta quando parti metto la sigla a tradimento. E niente, Kojima... che cosa dire di Kojima? A dire il vero, parecchia roba, perché... Stato, probabilmente forse i più affiatati l'avranno notato di sicuro, ma il titolo di questa puntata è dedicato a uno dei al boss più conosciuto probabilmente della saga di Metal Gear. Cavolo, non ci credo che abbiamo resistito finora a parlare del titolo della puntata. Volevo tenerlo come sorpresa finale questa. Effettivamente The Boss è il nome del boss finale di Metal Gear Solid 3. Ed è, giustamente, aggiungerei, uno dei momenti più celebri mai creati da Kojima. È proprio, come dire, è l'esempio lampante, è la manifestazione, ecco, di tutte le virtù, per così possiamo chiamarle, cinematografiche di game design. Di game design e anche di storia, principalmente. Più di storia, forse. Un filino più di storia che di game design. Cioè storytelling narrativo interattivo, mettiamo così. E cosa dire di questa boss fight? The boss, questa figura, questo mentore del protagonista che tu hai conosciuto, di cui se hai giocato, tra virgolette, bene, hai scoperto la sua storia durante il viaggio, durante la tua avventura, ti si para di fronte, mettendoti come ultimo ostacolo di questa storia. E magari ci sono stati quei giocatori in cui non si sono interessati troppo della storia, volevano solo giocare e l'hanno vista come solo un altro boss da combattere, appunto. E mentre quelli che si sono più appassionati alla storia del gioco hanno visto questo momento, questa battaglia, appunto, come un punto di svolta in tutta la vicenda della saga, perché qui Big Boss, il protagonista del gioco, affronta per il suo mentore The Boss, questa donna soldato che dalla storia straordinaria, e il fatto di doverla affrontare in questo momento è talmente carico di significato, c'è talmente, non so neanche parole, Jacopo, aiuta. Posso fare un commento controverso? Prego. Kojima non si è mai superato. Per me questo è questa boss fight, questo momento è l'apice di quello che è Kojima, di quello che rappresenta la sua filosofia, ed è una cosa che ho capito dopo un'intervista a Jordan Voigt, mi sembra che si chiama, che sarebbe in teoria, spero, il regista del film di Metal Gear che stanno facendo. Lui sta scrivendo la sceneggiatura e sta dicendo: io per scrivere la sceneggiatura, per pensare al design del film anche visivo, penso sia, vabbè, a Shinji Mikawa, come cazzo si chiama il tizio là, il designer di Kojima, Shinji Mikawa, tipo. Però penso a questa fight, penso alla fight con Sniper Wolf, ne parleremo dopo forse, ma volevo citarla velocemente, che sono boss fight dove tu non ti senti bene dopo aver finito la boss fight, dopo aver vinto. Tu senti questa sensazione di tragedia, di tutte queste emozioni contrastanti di voler vincere, di voler proseguire, di voler andare avanti, ma anche di capire che la persona che hai davanti, che ti sta dicendo che non puoi andare avanti, sa che sta per morire, sa che lo sta facendo solamente perché deve farlo, perché è necessario, è una cosa necessaria, è una specie di sacrificio ultimo alla pace, al pacifismo, che è una cosa di fondo, nonostante siano tutti giochi sulla guerra, eccetera, è un sentimento di fondo a tutti i Metal Gear Solid, a tutte quante le opere di Kojima, e The Boss è proprio il simbolo finale di cosa, cioè di quanto una persona può donare, può dare come sacrificio all'ideologia, di sacrificio al futuro, ed è citato in ogni gioco dopo, cioè Peace Walker è tutto su The Boss, sull'ideologia di The Boss, sul creare un'intelligenza artificiale con The Boss dentro. Metal Gear Solid 5 fa un riferimento diretto alla scena finale della boss fight, quando devi sparare, che è un momento che sembra quasi ridicolo, cioè no ridicolo, sembra quasi dissonanza autonarrativa, cioè il fatto di dover forzare il giocatore a fare qualcosa che dovrebbe essere automatico, perché alla fine il gioco ti chiede di premere un pulsante, puoi premere solo quel pulsante per andare avanti nel filmato, ma non è un quick time event, non è che c'è un timer, e non è opzionale come magari nel resto del gioco quando devi premere un pulsante per guardare dai binocoli in prima persona, è una cosa che devi forzarti tu a fare per andare avanti. E il gioco e non finisce lì. Cioè, il bello è che, cioè, la tragedia, il gioco ti continua a rigirare il dito nella piaga, perché fino alla fine viene reso vano questo sacrificio. A ogni, diciamo, nuovo sviluppo della trama fino all'ultimo colpo di scena dopo i titoli di coda, ti fa capire che questo sacrificio è stato vano. Che l'unica persona che davvero ha capito è stato Big Boss, cioè Snake, e che si porterà dentro questa rabbia del sacrificio vano per sempre. Quindi è boh. Io direi che il fulcro attorno a cui gira tutta quanta la storia di Metal Gear, cioè, in questo caso noi stiamo, in realtà qua stiamo più parlando del boss, di The Boss in vero e proprio, ovvero della sua storia, di come è stato creato il personaggio, di come è stato narrato il personaggio, di quello che si può scoprire. Il punto è questo: il personaggio è stato costruito, fatto, scritto, creato, quello che vuoi, tutto per culminare in quel momento, cioè per far capire appunto che a quel punto il giocatore aveva le redini di tutta la storia, e in quel momento e questa battaglia finale con lui rappresentava come un passaggio di testimone, cioè come... Sì, ogni cosa che fa in quella battaglia, tra l'altro, è una specie di... Ha imparato, no? Ha imparato CQC, ha imparato a nasconderti, ha imparato, capito? Cioè, è tutto un... Mamma mia. È il peso, perché è questo il punto. La battaglia di per sé, alla fine, è un uso delle meccaniche del gioco che hai imparato durante la partita che ha portato a questo momento. E va bene. È una battaglia tra due combattenti con armi da fuoco, eccetera, eccetera. Ma il significato recondito di questo momento è quello su cui si basa tutto quanto, cioè se non ci fosse significato dietro, questa forse sarebbe una battaglia interessante, ma una normale battaglia. Ma il punto è che esiste significato dietro, e il riuscire a comprenderlo fa diventare questo momento una cosa assurda, una cosa... Ma anche, secondo me, non serve, cioè, come dicevo prima, no? Ci sono boss che trascendono l'attenzione del giocatore alla trama. Cioè, semplicemente visivamente, secondo me, anche se non te ne frega un cazzo della trama, questo campo di fiori che improvvisamente alla fine diventa insanguinato dall'errore che hai fatto, no, dall'errore, dalla tragedia che hai dovuto compiere... cioè, io ce l'ho avuto come desktop da 15 anni questa immagine, quindi boh, mamma mia, memorabile. E quindi ci siamo bruciati un po', come dire, la ciliegina finale al mio però sì. Ce ne sarebbe anche qualcun altro da citare, voglio dire, io alla fine i giochi di almeno i primi, soprattutto quelli della saga di Metal Gear Solid, erano anch'essi molto incentrati più sui boss, sul combattimento con i boss, che rispetto al secondo vero e proprio titolo di Kojima, che era Death Stranding, che si concentrava meno sulla battaglia, ma più su tutto, anzi era un gioco più pacifico, tra virgolette, in questo caso. In Metal Gear Solid, che appunto era un gioco di guerra, che parlava di guerra, che affrontava i temi della guerra, il combattimento era inevitabile. E combattimento significa boss, appunto per questo alcuni sono assolutamente memorabili. Oltre ad aver citato The Boss, il nome del personaggio da cui prende il titolo questa puntata, io vorrei citare anche The End, che lo metterei quasi al secondo posto come boss memorabile per via della sua, come dire, eccentricità come boss. Bellissimo. È un membro della squadra capitanata appunto da The Boss, questa donna soldato, che è particolare appunto come un formidabile, è riconosciuto come un formidabile cecchino, solo che di molto di molta avanzata età, è un vegliardo, insomma. Sì, ogni boss, voglio dire velocemente, scusami, ogni boss in Metal Gear Solid 3 rappresenta un po' una parte, un sentimento, una parte da guerra o una come dire, una cosa che si posta dentro, e The End, come dice noi, si posta dentro la vecchiaia. Principalmente. E niente, sempre perché siamo un po' stretti con i tempi, adesso io direi di parlare di quelle cose interessanti. Quindi The End è famoso perché esiste questa meccanica un po' nascosta in cui se tu fai partire la sua battaglia, poi salvi il gioco, perché era anche possibile farlo in Metal Gear Solid 3, e poi continui, come dire, non giochi per un'intera settimana, una volta che riavvii la partita scopri che il tuo avversario era semplicemente morto di vecchiaia nella nell'aspettarti a combattere. Ma poi puoi anche prenderlo alle spalle, tipo si addormenta. Sì, cioè... si sente appunto tutti gli anni sulle spalle, si addormenta, si... Oddio, adesso ovviamente non mi ricordo. Cioè... Oddio, adesso sembra una battaglia troll, però in realtà se lo fai seriamente è difficile. Cioè se lo affronti bene non è banale. Un altro, tra virgolette, boss, in questo caso usiamo tra virgolette perché è una delle più anomale, in questo caso non c'è un vero combattimento, ma è The Sorrow, sempre da Metal Gear Solid 3. Direi che Metal Gear Solid 3 è quello più carico di questi esempi. The Sorrow non è un combattimento in questo caso, è una marcia forzata attraverso un fiume di anime in pena che rappresentano appunto la morte, le persone cadute in battaglia. E infatti più nemici avrai ucciso durante la partita, più questo fiume di anime sarà difficile da attraversare, perché le anime dei nemici uccisi ti verranno addosso e... Sì, è vero. Impedendoti di proseguire. E anche in questo caso, di nuovo, vogliamo dirlo, metafora, cioè nel senso riflessione sulla morte, quindi un altro momento ben riuscito di tutta la saga. Tra l'altro mi sa che solamente una persona... tecnicamente la uccidi per forza nel Gear Solid 3, quindi se fai una run dove non ammazzi nessuno, mi sa che vedi solamente un nemico che ti... Vabbè, non mi ricordo comunque. Probabile. Poi ovviamente ne abbiamo parlato nell'episodio quello sui controlli, vabbè, anche altri episodi. Psycho Mantis è un altro dei boss più cogimati, più memati della storia. Che ti vende, ti fotte il cervello, ti legge la memory card e ti dice: ah, ti piace giocare a Castlevania? Che ti prende per il culo, ti legge gli input, ti prevede le cose, quindi molto bello a livello di meccanica e anche bello a livello, vabbè, di trama, non è male come momento di... anche di sfondamento della quarta parete ci sta, cioè, bello comunque. Mm-hmm. Altri boss, purtroppo ho detto, cioè, secondo me un po' l'apice è stato Metal Gear Solid 3, poi purtroppo, cioè sia prima con per esempio l'insieme di Metal Gear Ray, comunque una battaglia bella ma non della stessa importanza. Esatto, memorabile ma per motivi diversi, perché era figa, perché era... Sì, esatto, o anche la battaglia contro il Sahelanthropus di Metal Gear Solid 5, che è il Metal Gear insomma di quel capitolo, e anche quella che piace a te, Death Stranding, secondo me... bella e tutto, cioè memorabile visivamente, ma come un po' tutti i boss di Death Stranding, secondo me un po' lascia il tempo che trova, e qui diciamo passerei a i boss non proprio fatti bene, perché comunque ci sono anche quelli, ovviamente neanche così parlo poi da qualche errorino, voglio dire, qualcuno errare è umano. Salvo prova contraria, Kojima è ancora umano. Forse umano. Allora, ce li togliamo subito loro? Io so che tu hai questo odio particolare, quindi direi... Non è un odio particolare, però c'è... è quello il punto. Poteva essere tanto di più, e poi è stato fatto in una maniera un po'... un po' così cosa... Ci riferiamo in questo caso alle Beauty and Beast, ovvero queste quattro donne soldato che appaiono durante, cos'era, Metal Gear Solid 4, sì. Sì. Queste donne soldato cresciute in tempi di guerra, che erano state addestrate e quasi costruite con esoscheletri meccanici per combattere in maniera particolare. E appunto venivano chiamate le Beauty and Beast, la bellezza e la bestia, perché erano queste quattro donne bellissime racchiuse in questi quattro armature bestiali. Ognuna aveva un po' la forma di vari animali, c'era il polpo, c'era il lupo, c'era... adesso mi stanno sfuggendo gli altri, uno era la volpe. Sti cazzi comunque. Che appunto... uno era sti cazzi. Cioè, tu di base diresti, ah, no, interessante il confronto tra innocenza femminile, la brutalità della guerra, cose così. E poteva essere anche fatto, sotto certi punti di vista è anche stato fatto in maniera profonda. Solo che c'era questa specie di easter egg, chiamiamolo, questo non lo so, questa ciliegina sulla torta, che se il giocatore estraeva la macchina fotografica dall'inventario di Snake e la puntava contro questi boss quando erano in forma di donna, tra virgolette, si iniziavano a fare pose provocanti e, come dire, oh mio Dio, cercava da pin up. Ecco, Kojima. Qua forse è stata la mezza età, non lo so, sarà stata la mezza età. Ma cioè, no, è che comunque Kojima non riesce a non essere giapponese, lui ci prova in tutti i modi, prova. Quindi sì, diciamo che c'era questa idea di base molto carina, un po' rovinata da questa cosa che non ci stava. Avete presente, no, la scena del cazzo in Fight Club, quella cosa lì, il film è tutto bello, poi però ti mette questa scena qua un attimo in mezzo, tu dici vabbè. Giorno dovremmo parlare dei filmati porno che c'erano in Metal Gear Acid 1 e 2. Addio. Vabbè. Però vabbè, non è un gioco di Kojima vero e proprio, quindi io posso, esatto, anche non parlare. Quindi ok, questa è stata, era la prima, la cosa più eclatante. Gli altri sono un po' di degustibus. Sì, vabbè. Cioè, allora, secondo me The Pain, forse abbiamo sbagliato a citarlo qui nei cattivi, perché The Pain è secondo me semplicemente un boss insulso. Secondo me non ha niente di che, è un po' come i boss di Death Stranding che sono tutti noiosi e un po' ripetitivi e facili. The Pain è semplicemente boh, cioè not the bees, direbbe Nicolas Cage, cioè api, acqua e sti cazzi. Secondo me sono più negativi gli altri due. E qui magari mi puoi insultare, cioè secondo me Fortune in Metal Gear Solid 2, mentre magari un boss come appunto Metal Gear Ray o anche Solidus Snake è diciamo un sacco caricato, no? Un sacco, te lo presentano e poi dici cavolo, alla fine è un sacco figo. Fortune viene un sacco caricata perché essenzialmente è una persona, è un soldato che non può essere colpito, semplicemente per un discorso di fortuna. Cioè lei dice io ci provo a farmi sparare, ma se ci provi i proiettili mi deviano e non mi colpiscono, per un fatto di fortuna. Alla fine, quando vai a fare la fight, non è vero, cioè nel senso, questa qui l'hanno essenzialmente fregata, facendogli credere che lei fosse tipo maledetta, quando in realtà semplicemente c'era un magnete che tirava i proiettili, e la boss fight è una grandissima stronzata. Quindi è una specie di doppia presa per il culo, per te e per lei, cioè... Ci sarebbe poi anche di parlare un po' di come è stato tutto lo sviluppo di Metal Gear Solid 2. Ah, assolutamente. Tutto, è tutta una presa per il culo quel gioco. Io Metal Gear Solid 2 lo giustifico solo perché è Metal Gear Solid 2, diciamo. Dovremmo fare un episodio parte solo su Metal Gear Solid 2 perché c'è troppo da dire. No, in realtà un po' l'abbiamo già parlato dei meme e di queste cazzate, però l'altro boss è ancora meno scusabile, allora, perché non è Metal Gear Solid 2. No, quello che è. Però te... Cioè, però allora... quel caso è un po' una questione di gusti, alla fine. Io... Di pure la tua su quest'ultimo boss. Allora, velocemente. Ultima boss fight di Metal Gear Solid 4, sei tu, Old Snake, Snake vecchio, contro il tuo amico, nemico, il tuo collega, il tuo fratello barra non fratello, Revolver Ocelot, però posseduto da Liquid Snake, che è una cosa... troppo cogino, troppo brutta, però che vi essenzialmente scazzottate due vecchietti che vi prendete a cazzotti sopra a questo, non so, questa nave, questo Outer Heaven, non si sa, su un orizzonte di oceano, e vabbè, le musiche cambiano, lo stile delle barre di salute cambia in base alle diverse ere dei Metal Gear Solid, ma essenzialmente una scazzottata di due vecchietti. Quindi a livello di boss fight, secondo me è stata deludente. A livello di trama, cioè a livello in generale di esperienza, sono d'accordo con te che sia è bello, però cioè, alla fine sono due vecchi ormai privi di forze, ma che continuano a combattere in quello che credono fino alla fine. Nessuno dei due intende arrendersi, per così dire. Quindi io l'ho sempre letta così, diciamo. E niente, cioè, ci sta come momento finale, come cosa molto poetica. Poi come boss fight, meccanica pura, puro gameplay, sì, no, quello è brutto. Però anche lì, forse perché Kojima, non tendo più a scusargli. Gli perdoni tutto, ci sta. Se c'è qualcosa di significativo dietro. Cioè, tipo che se ti porta un disegno di una, così dice, di una casa tutto quanto sbilenco, tutto quanto fatto male, tu gli dai una pacca sulla testa e lo metti sul frigorifero comunque perché sei orgoglioso di lui. Perché la casa è l'esistenza umana. Quindi. Ci sta. Va bene, caro. Niente, dai, io direi che abbiamo parlato anche troppo. Forse uno di noi due doveva anche andarsene. Forse entrambi. E va bene. Niente, quindi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Fateci, se qualcuno mai scriverà dei commenti, fateci sapere quali erano boss che magari non abbiamo citato in questa puntata. Niente, un saluto, io sono Marco. Sono Jacopo. E continuate a giocare. Ciao ciao.